Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo subito dal caso che ha già trattato poco fa Oscar Giannino, e cioè il caso Germania, perché a questo punto, dopo quanto abbiamo annunciato lunedì, è stata aperta ufficialmente l'indagine, l'analisi approfondita dall'Unione Europea sull'attivo commerciale della Germania. Cosa vuol dire? Che la Germania esporta, tra virgolette, troppo, un attivo record a settembre di 20 miliardi, attivo, attenzione, è la differenza tra quanto esporti e quanto importi, quindi è il netto, diciamo, tra quanto la Germania esporta e quanto la Germania importa. È troppo dopo l'appello, o meglio l'invito molto duro degli Stati Uniti, ma anche della Banca Mondiale, arrivata alla Commissione Europea. Su questo però bisogna fare attenzione, perché non esistono procedure di infrazione per un paese che esporti troppo. Esiste invece la preoccupazione di Bruxelles di una Germania che, investendo poco e quindi consumando poco, crea uno squilibrio all'interno dell'area euro. Sostanzialmente la Germania e i paesi satelliti sono molto forti nelle esportazioni, e invece investono poco, i consumi sono abbastanza bassi e quindi non aiutano i paesi dell'area, diciamo, più mediterranea. L'Italia non va male quanto a export, però è chiaro che una Germania che non fosse solo diventata lab, come dicono alcuni, di prodotti semilavorati che poi lei completa, lavora fino in fondo ed esporta, ma una Germania che diventasse anche un mercato di consumo, avvantaggerebbe paesi come l'Italia, la Spagna e anche la Francia. C'è da dire però, e ne parleremo in apertura, che se si guardano i dati ci si rende conto come la Germania non stia esportando soprattutto nell'area euro, che darebbe a questo proprio il senso di uno squilibrio, ma sta esportando soprattutto nei paesi fuori dall'area euro, e qui la situazione si complica, perché è difficile chiedere a un paese di ridurre le esportazioni fuori dall'area euro con la motivazione che crea uno squilibrio dentro l'area euro. La situazione è un po' più complicata di come non appaia. Comunque, ne parleremo in apertura. Poi i casi invece di casa nostra, perché? Perché oggi c'è uno sviluppo dell'inchiesta Fondiaria SAI che tira in mezzo di nuovo, devo dire, l'ex presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini, l'ISVAP non esiste più, era l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, è stata chiusa. Però lo dico perché a questo punto le accuse sull'ex presidente Giancarlo Giannini sono pesanti, perché Salvatore Ligresti avrebbe avuto contatti con l'allora presidente del Consiglio Berlusconi per far ottenere, una volta scaduto dall'incarico di presidente dell'ISVAP, l'incarico di presidente dell'antitrust, sempre Giancarlo Giannini. E ancora la vigilanza tardiva, cioè in ritardo, su Fondiaria SAI sarebbe appunto il risultato di un accordo tra Ligresti e Giannini, in cambio appunto della promessa di Ligresti di chiedere a Berlusconi di portarlo alla presidenza dell'antitrust. Si complicano un po' con la posizione dell'ex presidente, anche perché il figlio Andrea Giannini ha lavorato a Fondiaria SAI tra 2005 e 2006, non c'è reato ovviamente, però insomma, l'opportunità, quella sì, andrebbe valutata. Lo dico, ne parleremo ampiamente alle 18:15, senza nessun tipo di acrimonia, pur ricordando che lo stesso presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini, ha fatto sapere al sottoscritto, in tempi non sospetti, un anno e mezzo fa, tramite, diciamo, colleghi del Sole 24 Ore, che era pronto a querelare me e il programma se non avessimo smesso di attaccarlo per questo conflitto di interessi che a noi sembrava abbastanza palese tra il ruolo del figlio dentro Fondiaria SAI e la scarsa vigilanza dell'ISVAP, perché insomma tutto si può dire, ma quando un gruppo assicurativo sprofonda con un debito di 1 miliardo, la famiglia si accaparra 550 milioni creando danni ai risparmiatori e anche ai dipendenti, insomma, ci si chiede ovviamente dov'è l'autorità di vigilanza e a che cosa serva, a maggior ragione se poi tuo figlio lavora lì dal 2005-2006. Però, ripeto, senza nessuna acrimonia, la querela non è mai arrivata, sono arrivate le minacce e le pressioni, perlomeno da quanto ci è stato riferito, mi sembra che a questo punto il presidente dell'ISVAP, l'ex presidente dell'ISVAP, debba preoccuparsi di qualcos'altro più che di focus economia, ma lo dico nella massima serenità. Ancora parleremo poi, oltre che della vicenda Fondiaria Sai, della vicenda Telecom Italia, funzionari della Consob assieme a militari della Guardia di Finanza hanno compiuto questa mattina un'ispezione nelle sedi Telecom a Milano e a Roma. Riguarderebbe l'ispezione alcune delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta dello scorso 7 novembre. Tra le questioni l'attenzione degli ispettori non solo la vendita della quota di Telecom in Telecom Argentina e l'ipotesi di emettere, cosa prevista dal piano industriale, un'obbligazione da un miliardo, un bond convertibile da 1.300 milioni, ma anche alcune questioni trattate nel corso del Consiglio di Amministrazione, e ci sono stati anche degli esposti da parte degli azionisti di minoranza. E la Consob, a questo punto, assistita dalla Guardia di Finanza, ha deciso di vederci chiaro. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa come va? Va malino, anche e soprattutto rispetto alle altre borse europee. Meno 1,46% Milano, mentre Parigi perde lo 0,60%, Francoforte lo 0,30%, Londra meno 1,14%, l'America meno 0,40%. Euro a quota 1,3420. Chi perde tanto? Il titolo Mediaset, il calo è pesante oggi, meno 7,80%. Ma vanno male oggi tutti i bancari. Su Mediaset devo dire che da quello che vediamo è più che altro la preoccupazione di un calo della raccolta pubblicitaria nonostante i conti presentati ieri. Per quello che riguarda le banche, beh, Intesa ha pubblicato i conti e il mercato non reagisce bene, meno 3%, ma va particolarmente male il Banco Popolare, meno 5,81%, Mediobanca meno 4,40%, sono i bancari oggi che fanno calare Milano più delle altre borse europee, Unicredit meno 4,40% anch'essa, Mediolanum meno 4,36%, Pop Milano meno 3,40%, dicevamo, Fondiaria Sai meno 2,60%, e poi Ferragamo meno 2,40%, Azimut pure, Buzzi Unice meno 2,30%. Chi va bene invece è World Duty Free, più 2,80%, Ansaldo STS più 1,36%, ST Microelectronics più 1%, dicevamo 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Altre notizie, dicevamo, allora, per quello che riguarda il petrolio è leggermente salito a $93 al barile, però oggi l'economia viene a sapere da Tripoli che l'economia libica potrebbe subire una contrazione del 5% nel 2013 a causa degli scioperi che bloccano da fine luglio i maggiori siti di estrazione ed esportazione petrolifera del paese. Stanno costando $130 milioni al giorno e hanno fatto scendere la produzione libica da 1.600.000 barili al giorno nel periodo pre-rivoluzione a meno di 300.000 barili al giorno. L'inchiesta sulla presunta manipolazione dei tassi di cambio nel mirino dell'inglese Financial Conduct Authority, una delle 7 autorità che stanno indagando a livello mondiale, ci sarebbero 15 banche, lo riporta oggi Financial Times. Le indagini si concentrano sul mercato euro-dollaro, ma stanno anche valutando i rapporti di cambio tra sterlina, dollaro australiano e valute scandinave. In Gran Bretagna la disoccupazione cala al 7,6%, il minimo da 3 anni a questa parte, segnale che un altro paese è fuori dall'area euro ha recuperato i livelli, non dico pre-crisi, ma vicini alla crisi, forse ha adottato politiche diverse dalle nostre, ma qui io non posso fare oggi una puntata contro la Germania, tutta contro la Germania, anche se avrei una grandissima voglia, perché poi intanto vediamo se fanno un governo in Germania, perché in tutto questo mi sembra di capire che... Ma soprattutto i dati che arrivano da tutti i paesi che hanno adottato politiche diverse da quelle dell'area euro sono incontrovertibili. Poi uno la può pensare come vuole, può pensare che noi abbiamo fatto bene a obbligare i paesi a rientrare in quel modo su deficit e debito, può pensare che il fiscal compact, di cui ci occuperemo a breve, perché qui arriva una tegola nel 2015 insostenibile per l'Italia. Ho capito che abbiamo firmato un trattato, ma l'ha firmato Tremonti, il ministro Tremonti e Berlusconi con la pistola alla tempia poco prima delle dimissioni del governo Berlusconi, con uno spread che viaggiava a 400 punti. Un fiscal compact che preveda una manovra di 60 miliardi solo sul debito ogni anno è una follia nel 2015, quando l'Italia dovrebbe avere un po' di recupero di crescita economica, un po', poco. E invece oggi è lo stesso Financial Times a scrivere addirittura con un titolo "Urrà per Super Mario", Super Mario e Mario Draghi, è un richiamo addirittura in prima pagina, dopo la decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi di interesse al minimo storico. Dice il Financial Times: l'Eurozona rischia di cadere nella deflazione, e l'inflazione è ben lontana, è troppo bassa rispetto agli obiettivi della Banca Centrale Europea. E a chi sostiene, dice il Financial Times, che la decisione andasse rimandata, il quotidiano britannico risponde che la decisione era già stata rimandata per troppo tempo, e dunque un ulteriore ritardo avrebbe potuto far aumentare i rischi. E poi dice il Financial Times, così entriamo subito nel primo tema, e mi riferisco alla Germania, dice il Financial Times: attenzione, la Banca Centrale Europea non può varare una politica monetaria adatta solo per la Germania, non è questo il suo compito. Lo dice il Financial Times, non diciamo un politico o un opinionista portoghese, italiano o spagnolo. Allora passiamo al primo tema di apertura, la Germania sotto esame, indagine sul plus tedesco. Tra l'altro la Commissione Europea ha aperto un'indagine anche sull'Italia per il rischio dei rischi connessi al persistere di squilibri macroeconomici come il debito elevato, la disoccupazione e la perdita di quote di mercato. Ho capito, potete aprire tutte le indagini che volete, ma se qua non partono politiche europee la disoccupazione difficilmente si abbasserà e il mercato interno non ripartirà. A me sembra veramente la scoperta dell'acqua calda. Comunque, e della Germania ha parlato oggi anche il numero uno della Commissione Europea, José Manuel Barroso, spiegando a che cosa è indirizzata questa indagine. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Mai avremmo immaginato, visto che questo programma esiste da prima dell'inizio dell'euro e dell'area euro, di vedere un'indagine aperta perché un paese esporta troppo. Dovrebbe essere una cosa positiva, lo dico nella massima obiettività, ma la dice lunga non anche sul clima che si sta respirando in Europa, e iniziamo a essere ci avviciniamo alle elezioni europee, perché è chiaro che sotto accusa non è l'export tedesco tout court. Se la Francia esportasse, la Spagna esportasse, l'Italia esportasse ancora di più, non vi sarebbero problemi. È lo squilibrio di un paese che viene percepito ormai come completamente avulso a un'intera parte dell'area euro, con il sospetto / accusa che le politiche adottate in questi 2 anni e mezzo, anche 3, dal 2010 in poi, da quando è scoppiata la crisi greca, abbiano avvantaggiato anche e soprattutto la stessa Germania che le ha proposte. E non è chiaramente un bel sospetto, perché uno dovrebbe essere sopra le parti quando chiede rigore, non diciamo averne poi un beneficio diretto o indiretto. Barroso Barroso sui motivi per cui la Commissione Europea ha aperto un'indagine sull'eccesso di export tedesco. La Commissione Europea ha deciso oggi di avviare un'analisi approfondita sulla situazione della Germania. I dati evidenziano che la Germania presenta alti e costanti surplus commerciali, sebbene sia vero che la maggior parte di questo avanzo riguardi i paesi fuori dall'area euro. Un elevato surplus di bilancio non implica necessariamente che ci siano degli squilibri, ma dobbiamo esaminare con attenzione la situazione per capire se l'avanzo tedesco sia qualcosa che penalizza l'andamento dell'economia europea nel suo complesso. Non si vuole mettere in discussione la competitività tedesca. Voglio mettere in chiaro il fatto che il problema dell'area euro non è la forte competitività della Germania, ma il fatto che altri paesi siano ancora molto lontani da questo livello di competitività. Il nostro problema non è dunque la competitività tedesca, ma capire se la principale potenza economica europea possa fare di più per aiutare un rilancio dell'economia dell'area euro. Questo è il motivo per cui già da diversi anni invitiamo la Germania a sostenere domanda interna e investimenti, ad esempio attraverso una maggiore apertura del suo settore dei servizi. Allora, per come la capisco io, qua ci sono due problemi. Da un lato la Germania riesce a esportare a record nonostante un euro a quota 1,34 e quindi ha poco interesse, o non è, diciamo, poca sensibilità verso un euro più debole. E questo fa sì che poi invece Stati Uniti e Giappone adottino politiche di valute molto deboli. Dall'altro è un mercato chiuso nei servizi, diceva Barroso, per cui voglio dire, se tu sei in una famiglia vera che sta assieme e hai un diciamo parente che guadagna più degli altri, si chiede di consumare un po' di più in modo da avvantaggiare anche gli altri, insomma, di non fare il ricco in un'Europa che invece c'ha le pezze in parti poco nobili. Beda Romano, l'ho un po' semplificata, corrispondente del Bruxelles del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ma grande conoscitore della Germania, dove è stato a lungo corrispondente, tra l'altro proprio tu sul Sole 24 Ore facevi notare che, attenzione, l'export tedesco va, sì, diciamo, anche in Europa, però c'è una quota sempre più rilevante che va fuori dall'Europa e quindi può poco, diciamo, sulla domanda interna. Sono il 69% in Europa, il 16% in Asia, 12% in America. I principali clienti sono la Francia, 103 miliardi di importazioni dalla Germania, gli Stati Uniti 87, Gran Bretagna 73, Olanda 70, Cina 66, Austria 56 milioni, Italia importa 55 miliardi e poi la Svizzera 50. Da chi importa Berlino, cioè chi esporta verso la Germania, Olanda 85 miliardi, Cina 78 miliardi, Francia 64 miliardi, Stati Uniti 51, Italia 48 miliardi, poi Gran Bretagna 43 miliardi. L'avanzo della Germania, questo perché è importante vedere non quanto esporti o importi in assoluto, ma la differenza. Allora, la differenza con il resto dell'Europa è di soli 900 milioni, infatti il dato con l'Italia, vede, noi esportiamo in Germania per 48 miliardi, importiamo dalla Germania per 55, ma la Francia è sostanzialmente a altri 40 miliardi di svanzo, però complessivamente si ferma a 900 milioni. Questo vorrebbe dire, Beda, che è un falso problema quello posto dall'Unione Europea? No, non è un falso problema, c'è un problema di domanda interna in Germania, c'è un problema di investimenti in Germania. Nell'area della zona euro è evidente che la Germania consuma poco e investe poco, mentre esporta molto. Allora, prima di tutto bisogna cercare di capire perché consumi poco e perché investi poco. È un paese che è in piena crisi demografica, e quindi ci sono ragioni molto sociali e molto strutturali per cui il paese consuma relativamente poco. C'è anche una grande paura per il futuro, c'è grande incertezza sul futuro e anche questo probabilmente non aiuta i consumi e gli investimenti. Il secondo aspetto è un mercato che per certi versi è chiuso. Il mercato dell'energia, per esempio, è un mercato che è stato tradizionalmente chiuso e limitato alle aziende locali. Non so francamente quanti paesi possano gettare la prima pietra su questo punto. L'impressione è che vi sono altri paesi che hanno mercati altrettanto chiusi, penso in particolare a quello ferroviario in Francia. Tanto è vero, per fare un esempio. È vero. Terzo aspetto, le esportazioni. Allora, è verissimo che la Germania esporta tantissimo, esporta tanto per merito suo e per domanda terza, in altre parole, perché i prodotti tedeschi sono prodotti che sono molto apprezzati, a cominciare dalle macchine tedesche in Italia, per esempio. Quindi c'è questo, senz'altro questo aspetto, ma credo che l'aspetto più interessante sia mostrare che le esportazioni tedesche sono anche il frutto di importazioni tedesche. L'Italia ha beneficiato in questi anni delle esportazioni tedesche, perché l'Italia è uno dei principali fornitori industriali della Germania. Nel 2012, secondo l'Associazione dei produttori di macchine utensili tedesche, l'Italia è stato il primo fornitore al mondo, ben prima della Cina, per esempio. La Germania ha importato dall'Italia, in questo settore cruciale dell'economia, oltre 5 miliardi di euro, e molto più che nel 2011, per esempio. Quindi l'Italia in particolare, ma non solo, ha beneficiato molto delle esportazioni tedesche. Piccoli esempi che mi ricordo dai miei tempi della Germania. Il 15% dei bulloni di una Volkswagen, in media, sono prodotti da un solo fornitore italiano. Bosch Siemens Hausgerät, che è una delle principali aziende tedesche nel campo degli elettrodomestici, contava nel 2010, sono dati del 2010 perché sono quelli che avevo a disposizione quando ero lì, aveva a quei tempi 160 fornitori italiani. 160 fornitori italiani. Quindi il quadro inevitabilmente è molto più complesso, tanto che oggi la Commissione, certo, ha deciso di fare un'analisi approfondita dell'attivo delle partite correnti in Germania, ma ha deciso di farlo per capire meglio la situazione e vedere se si può cercare di migliorare l'aspetto strutturale all'interno dell'Unione Monetaria. Ma non sono certo che l'analisi terminerà con una critica radicale dell'economia tedesca. Sì, insomma, tu descrivi una Germania che è diventata una specie di hub, per usare un termine, diciamo, visto che oggi parleremo anche di Alitalia, un termine aeroportuale, tra prodotti semilavorati e che gli vengono forniti, li assembla, li, poi non è che li assembli e basta, insomma, e poi li esporta, che arrivino dall'Italia o dalla Cina, poco importa. Mi sembra, però, avendo una risposta dopo il MET, anzi, dammi una risposta subito così poi ti libero. Mi sembra però che a questo punto il piano sia più politico che economico, Beda, e cioè non so se si possa chiamare moral suasion, ma comunque l'Europa non è sorda al grido di dolore dei paesi dell'area sud e quindi apre un'inchiesta che appunto non ha né potere sanzionatorio né è detto che vada a portare una critica alla Germania. Però mi sembra che l'inchiesta si muova anche su un binario sbagliato alla luce di quello che tu dicevi, cioè andare a criticare la Germania per l'export è un po' difficile se poi hai molti fornitori, subfornitori italiani e non solo, se poi non puoi accusare un paese di esportare troppo perché i suoi prodotti piacciono. Diversa è l'accusa che le ha mosso in maniera molto netta la Casa Bianca e quindi gli Stati Uniti, a dire attenzione, o tu inizi a spendere un po', investire nel tuo paese, aprire alcuni mercati, sei ricco, bene, spendi in modo che riequilibri con i guadagni che hai dall'export e dalla tua situazione dei tassi quasi sotto zero, quindi facilitazioni per il credito per le imprese, però ridistribuisci un poco nell'area euro se siamo un'unica casa. Ecco, quella mi sembra un'obiezione forse più convincente, su cui l'Europa però non ha seguito l'invito americano. No, capisco il ragionamento. L'Europa in parte lo ha seguito il suggerimento americano, perché oggi nell'analisi, nella preanalisi che la Commissione ha effettuato, sì, certo, ha messo l'accento sull'export, perché la stampa ha messo l'accento sull'export, ma ha messo anche l'accento sul fatto che la domanda interna continua ad essere debole, quello che dicevo all'inizio. È vero, il paese consuma poco e investe poco. Detto questo, lo fa per motivi sociali, per motivi culturali che non vanno così ignorati. Ci sono dei motivi culturali e sociali. Perché dovremmo considerare i nostri motivi sociali e culturali nel parlare del nostro debito pubblico elevato e non considerare anche i motivi culturali e sociali per cui i tedeschi consumano poco? Credo che sia solo giusto tenere in considerazione questi aspetti. No, credo che in realtà ci sia un'accusa probabilmente corretta nel dire che la Germania investe poco. È vero che la Germania ha investito poco negli ultimi anni, in parte perché aveva investito tantissimo nel primo decennio dopo l'unificazione. Poi c'è stata una forte crisi economica, un calo degli investimenti, tanto che nella seconda metà del decennio scorso gli investimenti erano cresciuti più o meno dell'1% all'anno tra il 2005 e il 2009. Se voi andate a vedere i dati degli ultimi 3 anni, gli investimenti tedeschi sono aumentati di circa il 2,6% all'anno. Mm. A titolo di confronto, la Francia ha aumentato gli investimenti negli ultimi 3 anni di circa 1,6% all'anno. Quindi ho l'impressione che stiamo assistendo a una ridistribuzione. Mm. Evidentemente è lenta, è strutturale, ci vorrà tempo perché emerga chiaramente, nel frattempo bisogna avere pazienza. Sì, forse resta sullo sfondo però un'idea, Beda, per concludere, che un euro a 1,34 alla Germania non dia fastidio, visto quello che riesce a esportare, e tra l'altro comporta anche un costo più basso nell'approvvigionamento di materiali, perché spesso le materie prime, i materiali, soprattutto se arrivano dalle... si pagano in dollari, però creano grossa penalizzazione per paesi meno forti, penso all'Italia ma anche alla Francia, e sullo sfondo resta il sospetto che se poi la Germania è per una visione così ortodossa della Banca Centrale Europea, che comunque non può stampare moneta, non può fare quello che ha fatto la Fed o la Bank of Japan, è anche perché questa situazione, lei tutto sommato sta bene così, parlo dell'euro in questo caso. Ma io credo che la Germania probabilmente fa un ragionamento lungo sull'euro, di due tipi. Primo di tutto, l'euro forte, per così dire, nei confronti del dollaro è un incentivo permanente per rendere le proprie aziende più competitive, primo aspetto. Secondo aspetto, parte del ragionamento di veduta lunga della Germania, l'euro forte, bene o male, permette al paese di importare materie prime, certo, a costi più bassi. Io ho l'impressione però che questi due ragionamenti, bene o male, siano entrati a far parte del modo di vivere delle aziende italiane o delle aziende francesi o delle aziende spagnole. Questa crisi non ha lasciato nessuno indifferente. Ho l'impressione che ormai c'è un ragionamento diverso da parte delle aziende del Sud Europa sul modo di concepire e vivere il cambio in questo momento. Grazie Beda Romano, importante appunto anche il tuo punto di vista. Ripeto, a me sembra un'iniziativa più di carattere politico, non porterà a nulla, anche perché, ripeto, è difficile accusare un paese di esportare troppo se poi tra l'altro queste esportazioni sono fatte anche utilizzando molti fornitori di altri paesi dell'area euro. Grazie comunque al corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Sì, il problema poi è un altro ancora, perché in realtà i paesi dell'area euro più in difficoltà, vedi la Grecia, ma penso anche al Portogallo e anche l'Italia, si dice vabbè, tu non puoi uscire dall'euro, e meno male, aggiungo io, e allora non potendo svalutare la tua moneta devi svalutare i salari. No, il tuo lavoro deve costare meno, e questo però poi porta a un problema enorme di consumi interni, perché salari più bassi creano domanda interna più bassa, consumi che calano, e tutti gli operatori, tutte le imprese che lavorano sul mercato interno, quindi non esportano molto, vanno in difficoltà o chiudono. Per cui attenzione, tutto possiamo dire, ma che ci sia uno squilibrio in questo momento, che è sospetto che la Germania abbia perseguito interessi molto nazionali, molto specifici, resta, fermo restando che sono il primo a riconoscere che un'inchiesta sul fatto che esporti troppo, vabbè, giusto per far lavorare la Commissione Europea. No. C'è uno che mi dice, lei deve vergognarsi della sua trasmissione perché c'è un italiano che difende la Germania. Ma io dovrei vergognarmi se ci fossero opinioni diciamo di parte. Se Bella Romano fa un'analisi, avendo fatto corrispondente per oltre 10 anni da Berlino e adesso a Bruxelles, analizzando i numeri della Germania, a me sembra che forniamo un servizio, non che diciamo dovremmo vergognarci. Deve vergognarsi chi ha un'informazione partigiana di parte, politicamente sempre orientato in un modo o nell'altro. Così come risponde un altro ascoltatore che dice: ah, ieri lei non c'era, è tornato, certo che ne fa di vacanza. Guarda, io non devo spiegarle nulla, però visto che ormai è cosa nota, l'incidente che ho avuto comporterà anche nelle prossime settimane che mancherò alcuni giorni per vari controlli. Dopodiché, se io non è che mi permetto di dire quello che fa lei nella sua vita, ma vedo che ha buon tempo anche lei, anche se è al lavoro, per scrivere messaggi così, per cui evidentemente non basta essere al lavoro, occorre essere anche produttivi, glielo dico in maniera molto serena e tranquilla. Minuti, oggi sono un po' sballati tutti i blocchi, però partiamo dalla borsa e poi all'Italia, Telecom e Fondiaria SAI, meno 1,43% Milano, mentre Parigi perde solo lo 0,50%, Francoforte solo lo 0,20%, Londra invece più in linea con Milano, mettiamola così, meno 1,40%, Stati Uniti meno 0,40% sul Dow Jones. Particolarmente male oggi le banche: Banco Popolare meno 6,1%, Mediobanca meno 4,60%, Unicredit meno 4,5%, Mediolanum meno 4,30%, Pop Milano meno 3,50%, Fondiaria SAI meno 3%, Popolare Emilia Romagna meno 2,30%, Intesa San Paolo meno 2,30%, anche se oggi ha pubblicato i conti nei primi 9 mesi, l'utile scende a 640 milioni, nel trimestre è migliorato a 218 milioni di euro, però appunto 640 milioni nei primi 9 mesi, l'utile netto contro il 1,680 miliardi di un anno fa. Si va comunque verso il dividendo per Banca Intesa, e nei primi 9 mesi sono stati accantonati per distribuire poi utili agli azionisti, questo è il dividendo, 624 milioni di euro. Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, al di là di Intesa, perché così negative tutte le banche? Ma la Banca Popolare perde il 6,1%. In questi giorni i principali istituti hanno più o meno pubblicato i conti, domani li darà il Monte dei Paschi di Siena, oggi è stata la volta, come hai detto tu, di Intesa, ma anche di UBI questa mattina. Sono conti che alle volte sono risultati migliori delle attese, però sono tuttavia in perdita. UBI ad esempio questa mattina era addirittura premiata perché i conti erano superiori alle attese, d'altra parte l'utile è calato del 54,2% a 101 milioni, e così si può dire più o meno anche per altri istituti, quindi probabilmente evidentemente gli investitori tendono ad alleggerire un po' le posizioni, tanto più che i titoli bancari proprio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, da quelli estivi, hanno fatto sicuramente meglio rispetto ad altri comparti. Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo di nuovo in diretta. No, sorrido perché ci sono degli ascoltatori: ma cosa hanno mangiato oggi? Quello che continua a dire per un controllo medico, lei mi vuol far credere che non poteva essere in onda, ma si faccia un po' i fatti suoi e lavori. Sono le 6:50, rompe le scatole a me, ma lei com'è che ha tutto questo tempo per mandare questi messaggi? Poi alcuni che dicono che sulla Germania non si è capito il problema, io non so più cosa fare, abbiamo parlato per 20 minuti, a mio avviso l'infrazione europea, la procedura, non c'è un'infrazione, in realtà l'inchiesta europea non porterà a nulla, porterà a una bolla di sapone. Altra cosa dire che la Germania vada bene l'euro a questi livelli, che è verissimo. Altra cosa ancora dire che la Germania invece dovrebbe investire e consumare un po' di più in casa per avvantaggiare gli altri paesi dell'area euro, ma aprire un'inchiesta perché la Germania esporta troppo, quando poi scopriamo che esporta tanto ma fuori dall'Europa, uno, e che esporta tanto ma utilizza molti gruppi europei, molte aziende europee per i prodotti semilavorati o comunque come fornitura, mi sembra un'inchiesta che non porterà a nulla. Chiudo E comunque ringrazio anche gli ascoltatori più polemici. Eleonora Micheli, Mediaset, dicevamo, sì, ieri sono usciti i conti, e anche però ci sono preoccupazioni sulla raccolta pubblicitaria, se ho ben capito, non di carattere politico, mettiamo. Esatto, così. Esatto. No, tant'è che questa mattina i titoli andavano bene, stranamente, perché ieri abbiamo visto che nei primi 9 mesi comunque l'azienda ha migliorato i conti, ma ha perso oltre 27 milioni di euro. Comunque questa mattina gli investitori premiavano il fatto che sono stati notevolmente ridotti i costi, tant'è che la riduzione il target di riduzione dei costi è stato già anticipato per quest'anno, il target che era del 2014. Detto questo, però, il nodo rimane ovviamente la raccolta pubblicitaria. Se nel terzo trimestre c'è stato un miglioramento dello 0,1%, purtroppo negli ultimi mesi dell'anno è previsto ancora un decremento che è previsto pari al 5%, e quindi questo fa ovviamente preoccupare gli investitori e pone delle prospettive poco rosee per Mediaset. Certo. Sì, devo dire che oggi il Premier Letta ha parlato di di segnali di ripresa. Facciamo far sentire Letta, perché ha detto insomma, i segnali che stanno arrivando sono buoni. Per carità, già il ministro Saccomanni aveva detto che il PIL crescerà dell'1,1 non dello 0,7%, però evidentemente le imprese, questo, o alcune imprese, o molte imprese, questo tipo di ripresa non lo vedono, perché se le prospettive di investimenti pubblicitari sono così basse, chiaramente tutto sto ottimismo sulla ripresa non c'è. Comunque Letta oggi nel suo intervento in visita al CONI, in cui ha parlato di tutt'altro anche, però questo accenno alla ripresa economica. Il nostro è un paese che deve assolutamente trovare la strada della ripresa. Ieri abbiamo avuto segnali che sono segnali importanti, per adesso sono segnali macroeconomici che hanno a che vedere con i dati di alcune agenzie internazionali, alcuni macrodati che dicono che l'anno prossimo, il 2014, la ripresa è effettivamente a portata di mano. Non si vedono, non si toccano con mano questi dati, perché purtroppo l'onda lunga della crisi porta ancora oggi a vedere i dati della disoccupazione che è cresciuta e i dati delle attività economiche che chiudono. Ma il segnale che i dati sulla ripresa possono consentirci l'anno prossimo di avere dei risultati positivi e importanti, di invertire la tendenza e quindi di far sì che la fiducia riprenda anche per quello che riguarda la domanda interna. Speriamo nell'onda lunga, speriamo che l'onda lunga non sia uno tsunami. Comunque, Eleonora Micheli, bene World Duty Free più 4,42%. Sì, ieri la società ha dato i conti del terzo trimestre, ma soprattutto ha rivisto al rialzo le stime sul fatturato di fine anno. Ovviamente è andata quindi in controtendenza, evidentemente ha seguito un po' quello che ha detto Letta, cioè vede positivo, e il mercato l'ha premiato più 4,4 contro il mercato che ha perso oltre l'1%. Ecco, il mercato ha premiato anche titoli che non sono nel listino principale, ma penso a Valsoia, dopo i conti più 8,50%. Bene anche a F, anche qui dopo i conti più 4,20%. PMS, miglior titolo in assoluto, più 11,80%. Primi sui motori, più 7,70%. Si occupa di motori di ricerca, già una volta fece una gaffe, non sapevo di cosa si occupasse, pensavo si occupasse di automobilismo invece di motori di ricerca. Ancora invece peggior titolo, IKF meno 9%, Borgosesia sulle risparmi meno 8,80%, ancora e Mediaset, come dicevamo, meno 8%, D'Amico International meno 7%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore. Dopo il GR invece l'ispezione della Guardia di Finanza e della Consob Telecom Italia, la vicenda all'Italia, visto che a minuti dovrebbe iniziare il Consiglio di Amministrazione, sperem. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso rapidamente tre temi di attualità e della cronaca quotidiana italiana, dopo aver aperto con la Germania e la procedura avviata, l'ispezione avviata dalla Commissione Europea, e poi la borsa. Primo tema in rapida sequenza: all'Italia, la soap opera, se non fosse tragicamente In gioco anche la permanenza al lavoro di oltre 1000 dipendenti assunti e 1100 diciamo, con contratti a termine. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. È iniziato il CDA? La risposta è no. Eccoci. Quindi poco fa era di che stiamo a parlare. Invece comincerà, adesso dicono tra un'ora. Tra un'ora. Questo potrebbe significare che stanno ancora dopo un mese che hanno deciso di fare un aumento di capitale, stanno ancora trattando, ecco, dei... Allora, ecco, veniamo a questo punto che è cruciale. L'aumento di capitale deve portare in cassa 300 milioni, se non ricordo male. Sì. Per ora hanno sottoscritto l'aumento, cioè hanno deciso di mettere soldi i soci per 136 milioni, di cui 71 milioni dai soci veri e propri, Intesa San Paolo 26, Atlantia 26, IMSI 13, Maccagnini 6 milioni, 65 milioni arrivano da prestiti, Unicredit Intesa San Paolo, 75 milioni dovrebbero arrivare dalle Poste, ma si attende l'autorizzazione del Ministero dell'Economia nel Consiglio di Amministrazione del prossimo 20 novembre. Assemblea degli azionisti, scusami, del prossimo 20 novembre. E poi se Air France non dovesse sottoscrivere l'aumento, la sua quota scenderebbe dal 20 e passa al 7%. Air France sembra contraria comunque a sottoscrivere l'aumento. Ieri era sembrato più ottimista il ministro Lupi, dicendo che le Poste comunque entreranno con 75 milioni con o senza Air France. C'è un interesse sia cinese sia Etihad, quindi Emirati Arabi, sia dell'Aeroflot. Gianni. Ma questo interesse di vettori extracomunitari, nomi che si fanno da tempo, è forse un interesse virtuale, non ci sono atti concreti. Etihad è stata, diciamo, del Torque è stato anche negli Emirati Arabi Uniti l'amministratore delegato dell'Alitalia quest'estate e aveva detto in consiglio di amministrazione che pensava di poter portare un loro ingresso con fino a un 30% nell'Alitalia. Diciamo che a questo non sono mai seguiti atti formali, manifestazioni di interesse esplicite o impegni, quindi quanto da Aeroflot sembra più un ballon d'essai. Se ci fossero, io credo che questi temi come possibili partner alternativi siano stati utilizzati per cercare di stanare un po' i francesi, che hanno invece dalla loro forza quella di tenere, diciamo, di alzare le condizioni a loro vantaggio, visto che l'Italia, se loro non dovessero mantenere una presenza importante nel capitale, ma anche versare i soldi di cui l'Italia ha bisogno, sarebbe molto più debole, più in difficoltà. Quindi credo che in questo momento l'unico, a parte questi soci italiani e le banche che garantiscono una parte dell'aumento di capitale, l'unico vero partner industriale che può giocare questa partita è France in questa fase. Ecco, ma è confermato perlomeno prima dell'inizio del Consiglio di Amministrazione che si punta a posticipare di altri 10 giorni almeno la scadenza per l'aumento di capitale che era prevista per domani. Questa informazione che abbiamo pubblicato su Sole 24 Ore già stamattina non è stata smentita, anzi oggi è stata, diciamo, in qualche modo confermata, ma non da fonti ufficiali. È un elemento di, diciamo, fa parte della trattativa, fa parte dei discorsi in atto e lo ritengo altamente probabile. Poi, diciamo, il fatto che ci sia un ritardo nel Consiglio, non so se c'è qualcuno che è in ritardo con l'aereo, ma può far pensare che possano anche emergere soluzioni diverse. Certo, è una trattativa continua, ci sono anche molti soggetti coinvolti, ci sono anche le banche, i soggetti italiani, che credo che diversi di quelli che ancora devono mettere una parte del denaro promesso, non tutti lo metterebbero naturalmente, se Air France non fa il suo versamento sarebbero molto più incerti se procedere, tra cui in questo ci sono anche le due banche, Intesa San Paolo e Unicredit, che come hai ricordato hanno anticipato 65 milioni che fa parte della garanzia su una quota di azioni inoptate, ma loro hanno assunto un impegno almeno fino a 100, quindi dovrebbero mettere altri 35 milioni. Quanto alle Poste, le Poste è sempre stato chiarito fin dall'inizio che il loro intervento sarebbe nella fase successiva, quando si emerge che i soci attuali non hanno sottoscritto tutto, cioè il cosiddetto inoptato, quindi l'assemblea deve dare l'autorizzazione, ma è già previsto fin dall'inizio che il loro intervento sarebbe solo nella fase successiva, quindi quella non può essere indicata come un elemento oggi di, per cui è necessario rimandare di una settimana o 10 giorni. Vabbè, ci risentiremo domani, Gianni, vediamo cosa uscirà. Mi sembra abbastanza chiaro però, insomma, che cercano in questo momento di prendere tempo, ma non si sta sbloccando, lo dico in maniera molto chiara, la situazione con Air France, anche perché Air France, come tu ricordavi, in questo momento sente, se mi passa il termine, di avere il coltello dalla parte del manico, perché quando tu sei così in ginocchio che non riesci neanche a sottoscrivere l'aumento di capitale, è chiaro che, lo so, è il gioco della giungla, ho capito, però è chiaro che quelli fanno la faccia feroce e dicono no, noi non partecipiamo a queste condizioni. È inutile continuare a ripetere che nel 2008, l'abbiamo detto mille volte, Air France era disposta a mettere sul piatto 1,6 miliardi, 1,8 miliardi per prendersi tutta l'Alitalia. Il tempo passa e non passa in vano, purtroppo. È inutile piangere sul latte versato. Magari servisse come memoria al paese quando la politica si mette in mezzo sui piani industriali. Adesso restiamo sui piani industriali, però, per parlare di tutt'altra vicenda, o meglio, tutt'altra, delle volte accomunata perché come segnale della debolezza del sistema Italia, della capacità che ha l'Italia di tenersi i suoi gioielli o i suoi punti di forza, mi riferisco a Telecom Italia, dove oggi però è intervenuta la Consob assieme alla Guardia di Finanza. Allora, la Guardia di Finanza vuole vederci chiaro sul piano industriale di Telecom Italia, quello che prevede la cessione di Telecom Argentina, l'emissione di un'obbligazione convertibile da 1,3 miliardi di euro, ma anche altre questioni trattate durante il Consiglio di Amministrazione. Angelo Mincuzzi, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Domanda molto semplice, ma io capisco tutto, ma perché la Consob e la Guardia di Finanza vanno negli uffici di Telecom Italia a Roma e a Milano per un piano industriale che potrà avere mille limiti, a noi può non piacere, c'è diciamo, la componente spagnola che ne pensi Zanonato dimostra di controllare già ampiamente il gruppo Telecom Italia, ma tutto questo rientra nelle strategie di un gruppo, no? Sì, tutto questo rientra nelle strategie di un gruppo. C'è da dire però che l'iniziativa di oggi nasce da alcuni esposti che sono stati presentati e quindi la Consob probabilmente come atto dovuto doveva avviare delle iniziative ispettive. Gli esposti sono quelli che sono stati presentati dagli azionisti di minoranza di Telecom Italia, e cioè Marco Fossati, che è azionista con il 5%, e gli azionisti che sono riuniti nella ASATI, la società dei piccoli. Nei giorni scorsi hanno mandato delle denunce alla Consob lamentando il fatto che alcune decisioni prese nel Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre li abbiano danneggiati, quindi la Consob ha avviato queste iniziative. C'è un'altra cosa, oggi si sono intrecciati due avvenimenti che riguardano Telecom, perché oltre alla iniziativa della Consob con le ispezioni di oggi si è avuta notizia di un'inchiesta aperta a ottobre dalla Procura di Roma. È un'inchiesta che riguarderebbe la vendita di Telco agli spagnoli di Telefonica. Sostanzialmente gli spagnoli hanno raggiunto un accordo per ricapitalizzare Telco, quindi nei prossimi anni saliranno il 100%, e i magistrati romani indagano su questo. È un'indagine che è stata aperta d'ufficio, anche questa sembra dopo un rilievo e una segnalazione della Consob, non vede indagati al momento né ipotesi di reato, quindi diciamo è alle battute iniziali, però insomma sono due cose che si intrecciano, che potrebbero anche saldarsi come inchieste. Hai fatto bene a ricordare però che sono due atti dovuti, cioè quando c'è un esposto tu sei obbligato a intervenire. Non c'è nessun atto dovuto invece nell'ultima inchiesta di oggi, tra l'altro c'è un'altra di cui non potremo occuparci, la Procura di Milano indaga su Apple per una frode da 1 miliardo, avrebbe sottostimato l'imponibile fiscale per gli anni 2010-2011, e anche qui gli investigatori della Guardia di Finanza si sono presentati nella sede dell'Apple in piazza San Babila a Milano. Ma dico, c'è un'altra inchiesta dove non c'è nessun atto dovuto, vanno avanti alcuni filoni, che ci vede indirettamente coinvolti, ma non voglio marmaldeggiare, perché di mezzo questa volta c'è di nuovo l'ex presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Immagina l'immaginabile. www.ethsecurity.com First in Security Cloud. Vi presenta Strade in diretta. incidenti a cantieri a condizionare gli spostamenti della sera. In uscita da Milano un incidente tra tre auto sul raccordo che da Piazzale Corvetto porta in Autosole, potrebbe condizionare la circolazione anche sulla tangenziale est milanese in direzione Autosole. In entrata a Roma traffico fermo per un incidente sulla 24 tra Sette Camini e il Grande Raccordo Anulare. Sulla carreggiata interna del raccordo si resta tratti in coda dalla Cassia alla Prenestina. Da pochi minuti si è verificato un altro incidente tra Magliana e Pisana. Ci sono code per lavori a Torino in tangenziale sud tra Corso Alamano e Sito in direzione Piacenza. In direzione Firenze in Autosole ci sono code per lavori tra Arezzo e Valdarno. Noi torniamo tra mezz'ora circa. Promo 24. I mercati finanziari si muovono ogni giorno. Per questo bisogna affidarsi ad un trading innovativo. Con i CFD di IG è possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime. Ogni giorno 140.000 trader usano la piattaforma di IG. Il trading sulle valute offre tante opportunità e con la piattaforma di IG si può operare al rialzo e al ribasso su oltre 80 coppie di valute a qualsiasi ora della giornata. Inoltre, con la nuova piattaforma MetaTrader di IG si ha l'accesso a centinaia di indicatori, segnali di trading e sistemi di trading automatico. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Focus Economia. Un anno e mezzo fa iniziamo a parlare anche due di Fondiere Assai e notammo come tra le varie coincidenze, compensi assurdi che si dava lo stesso Ligresti, pur essendo presidente per consulenze, i soldi percepiti da Lionella, Paolo e Giulia Ligresti e da Fausto Marchionni, c'erano anche altre coincidenze che riguardavano le autorità di vigilanza. Una su Marco Cardia, figlio dell'allora presidente della Consob, Lamberto Cardia, che era inquilino di un appartamento nel prestigioso palazzo dei Parioli di proprietà degli Ligresti, quello in cui inquilini sono stati o sono Angelo Alfano, Renato Brunetta, Chiara Geronzi, Italo Bocchino. Ma fin lì, voglio dire, nulla di strano, anche se proprio non è opportuno. Così come non opportuna ci sembrò la coincidenza che mentre l'ISVAP, l'autorità di vigilanza di allora, è stata chiusa, presieduta da Giancarlo Giannini, si era mossa con estremo ritardo per capire cosa succedesse in Fondiere Assai, come mai vi fosse un miliardo di debiti, come mai su Fondiere Assai venissero scaricate le spese folli della famiglia Ligresti, l'acquisto degli Ato Hotel e quant'altro, tant'è che il commissario straordinario Matteo Caratozzolo parlò di opera di spoglio perseguita continuamente dalla famiglia Ligresti. L'ISVAP mai si è mossa, però c'era questa coincidenza per cui il figlio del presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini, ha lavorato a Fondiere Assai tra il 2005 e il 2006. Coincidenza da coincidenza, lo stesso Giannini ci fece sapere, il padre, il presidente, che era pronto a muovere querela al sottoscritto, al programma, alla radio, se non avessimo smesso di accumulare la presenza del figlio in Fondiere Assai al ruolo dell'ISVAP. L'ISVAP poi l'han chiusa, Giannini, ci dispiace per lui, è finito sotto inchiesta e oggi c'è un nuovo sviluppo che riguarda un incontro che Salvatore Ligresti avrebbe avuto con l'allora presidente del Consiglio Berlusconi per far ottenere che cosa, lo chiedo a Raffaella Calandra. Raffaella. Per far ottenere a Giancarlo Giannini un ruolo alla guida dell'antitrust una volta che il suo incarico alla guida dell'ISVAP fosse concluso. Questo doveva essere, secondo i magistrati di Milano, questa era la promessa di corruzione, perché è di corruzione che Giannini è accusato insieme a Salvatore Ligresti, ma Giannini deve rispondere anche di calunnia nei confronti degli stessi ex amministratori di Fondiaria. Qual è la storia che emerge da questa inchiesta del PM Luigi Orsi, che è stata chiusa oggi? In queste 8 pagine che abbiamo tra le mani dell'avviso di chiusura dell'indagine, i PM ricostruiscono il fatto che per 8 anni l'ISVAP, cioè il controllore, non ha controllato Fondiaria. Cioè per 8 anni gli occhi dell'ISVAP sono rimasti chiusi, le bocche sono rimaste completamente cucite rispetto a quanto avvenisse all'interno di Fondiaria, e l'ispezione è stata mandata solo nell'ottobre 2010, quindi 8 anni dopo l'ingresso della famiglia Ligresti all'interno di Fondiaria, avvenuto nel 2002. in modo tardivo, rallentato secondo i magistrati, perché più volte Giannini avrebbe tentato di posticipare queste verifiche e di farle realizzare non su quello che erano i veri punti dolenti, quindi la gestione, quindi la governance di Fondiaria. Questo è il cuore dell'inchiesta, che emerge anche da quanto lo stesso Salvatore Ligresti racconta ai PM, perché è lui stesso a parlare di questo incontro avuto con Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, un incontro in cui raccomandò in sostanza Giannini all'allora Premier perché passasse dall'ISVAP all'antitrust. Uno va detto che questo non è mai avvenuto, per correttezza, all'antitrust non c'è andato Giannini, e quindi questo va detto come dato di fatto. Prego, Raffaella. Sì, questo non è avvenuto, ma è questo che lui racconta, che certo. Dice di aver riportato, come in quella stessa circostanza fece un'altra raccomandazione, che era quella dell'allora commissario prefettizio e oggi ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, perché non fosse spostata da Bologna. Allora la Cancellieri era commissario appunto prefettizio a Bologna, e in quella stessa occasione Salvatore disse al PM Luigi Orsi che lui si era fatto portavoce di queste richieste che gli erano arrivate. Oh, queste sono le dichiarazioni di Ligresti al PM, sì. Quindi attenzione, non si tratta né di intercettazione né di altro, però no, certo verbale. Che a tutto verbale chiaramente, certo che insomma la posizione di Giannini è già molto complicata, perché era indagato quando scoppiò proprio l'inchiesta su Fondiaria SAI, fu subito indagato e adesso si va oltre. Devo dire che quantomeno sull'opportunità politica e sul ruolo politico, anche la posizione del ministro Cancellieri, io ero in ospedale quando è successo il caso, abbiamo avuto modo di dire attenzione, non c'è probabilmente reato, anzi non c'è reato, ma l'opportunità politica è un'altra cosa, anche perché questo paese forse ne ha abbastanza, diciamo, dei salotti buoni che poi sono salotti pessimi, per vedendo poi come vengono guidate queste aziende e spolpate nei vari gruppi italiani, e di raccomandazioni di altro genere. Questo va, a mio avviso, politicamente a complicare la posizione della Cancellieri, anche se poi magari il giudizio politico si muove su altri elementi, per esempio sul bisogno di stabilità del paese, non creare, diciamo, una crisi di governo, un rimpasto al buio, non è oggetto di questo programma. La posizione di Giannini quindi si complica. A questo punto quali saranno i prossimi passaggi? Dico, mi dispiace per il presidente dell'ISVAP, spero che a questo punto non ci quereli più, però se ha voglia. Prego. Beh, i passaggi sono i passaggi tecnici, quindi cioè dopo l'avviso di chiusura d'indagine gli indagati hanno 20 giorni per chiedere di essere ascoltati dal magistrato, dopodiché da parte della procura viene avanzata una richiesta presumibilmente di rinvio a giudizio, quindi comincia l'udienza preliminare, poi si delineano anche le scelte processuali che i vari imputati fanno. La questione più importante che però qual è? Che in questo momento, cioè con l'avviso di conclusione d'indagine, vengono depositati tutti gli atti fin qui raccolti, quindi tra i verbali di cui abbiamo già parlato di Salvatore Ligresti e quelli anche tutti gli altri elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, dagli inquirenti, compreso anche un interrogatorio del figlio della Cancellieri. Allora, chiariamoci su un punto, che qualcosa non abbia funzionato quando tu crei 1,5 miliardi di buco, ti mangi 550 milioni, sei quotato in borsa, quindi hai come vigilanza la Consob perché sei in borsa e poi come vigilanza anche l'ISVAP, che non esiste più, ripeto, perché sei una società di assicurazione, beh, quantomeno andrebbero, diciamo, criticati per il mancato ruolo. Quello che sta emergendo è che in realtà forse delle volte, come certe scimmiette, non si voleva non vedere, e dubito anche che fosse difficile non vedere con quello che è successo, ma tant'è, un bel ripensamento anche sull'autorità di vigilanza andrebbe fatto in questo paese, perché ne abbiamo le scatole piene dopo Cirio, Parmalat, sempre solite storie, in questo caso anche appunto quella di Fondiaria SAI. Grazie a Raffaella Calandra, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto a tutti voi in ascolto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.